Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, bentornati a Mr. Kilowatt. Riprendiamo questa sera la nostra conversazione con Nicolò Aste, professore del Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, col quale ieri abbiamo parlato di questo premio assegnato ad Aste, insomma, e a tutto il gruppo che ha lavorato, la riqualificazione di un edificio, l'edificio della compagnia assicurativa Ergo a Milano, che ha meritato un importantissimo premio internazionale, lo Zero Footprint Rescanning Award, che è un premio che viene assegnato per la ristrutturazione di edifici, ristrutturazione che deve avvenire naturalmente con risultati notevoli dal punto di vista del miglioramento energetico e dei benefici ambientali. È stata assegnata in particolare la menzione d'onore per la riproducibilità, ossia la metodologia che è stata utilizzata su questo edificio è applicabile in molti altri casi. Due numeri per ricordare di che cosa stiamo parlando: un palazzo di 50.000 metri cubi, è stato ridotto del 40% il consumo energetico intervenendo solo ed esclusivamente sull'involucro e facendo in modo che all'interno i lavori potessero continuare normalmente. Da un punto di vista economico, come abbiamo visto ieri, è stato un successo, diciamo, per tutti, perché l'edificio, con a fronte di un costo di 2 milioni per la ristrutturazione, ne ha guadagnati 6 di valore, oltre alla efficienza energetica maggiore. Allora, adesso cerchiamo di capire un po' meglio in che cosa consiste questa metodologia. Buonasera Aste. Buonasera a voi. Allora, la prima cosa che avete fatto, come si fa in questi casi, appunto, è andare e misurare tutto quello che si può misurare. Sì, e questo molto spesso è difficile, perché soprattutto per quanto riguarda le bollette elettriche è un grande calderone in cui c'è tutto e si fa fatica a capire quali sono le voci che impattano maggiormente e sulle quali si può intervenire. Diciamo che questa, il cosiddetto share out dei consumi elettrici, è stata una delle parti più impegnative. Cioè share out vuol dire scorporare i consumi elettrici nelle loro varie voci, cioè distinguere il consumo dei computer da quello del, esatto, per esempio del condizionamento, no? Esatto. Benissimo, allora, primo step è stata la misurazione, il secondo step è stata la simulazione, cioè siete andati a vedere, apportando in teoria dei cambiamenti, immagino ne avrete magari provati anche tanti, quanto si poteva risparmiare. È così? Come funziona? Sì, la simulazione serve innanzitutto per validare le ipotesi fatte sui consumi, perché si cominciano a fare queste suddivisioni in parte su basi empiriche, in parte su ragionamenti teorici, poi bisogna verificare che tutto sia corretto. Quindi si fa un modello dell'edificio. Un modello fisico proprio, no? Beh, un modello virtuale in realtà, sì, sì, certo. Ma che contiene tutte le informazioni, dai materiali all'occupazione delle persone, perfetto, al contesto di inserimento, anche al clima effettivo della località in cui l'edificio si trova. Perfetto, perfetto. E avviene questa che viene chiamata una simulazione dinamica. Esattamente, simulazione in regime dinamico, perché tiene conto a step di 5 minuti del comportamento di tutta la struttura con sollecitazioni reali invece delle solite sollecitazioni medie, temperature medie, radiazione media, eccetera, a cui si fa riferimento. Quindi diciamo che l'edificio è inserito in una sorta di realtà virtuale molto attendibile. Quando il modello viene validato, nel senso che come si comporta il modello è quello che si vede essere il comportamento dell'edificio reale vecchio prima dell'intervento, allora su quello si comincia, sul modello si cominciano ad apportare le possibili modifiche. Quindi si interviene simulando la sostituzione dei serramenti, simulando l'applicazione di un cappotto, ipotizzando il posizionamento dei frangisole, e ogni volta si va a vedere qual è il costo presunto e qual è il beneficio ottenibile. E alla fine quali sono gli interventi principali che avete individuato? Beh, lì innanzitutto la prima cosa da fare è quella di aumentare il livello di isolamento. Poi abbiamo operato soprattutto sull'aumento dell'inerzia termica, perché sappiamo che le strutture pesanti si comportano dal punto di vista energetico molto meglio delle strutture leggere. Sì. E quindi abbiamo usato ad esempio dei rivestimenti in marmo per, sì, aumentare la massa, ma anche ad esempio abbiamo mantenuto il vecchio rivestimento di piastrelle, sì, si stavano distaccando completamente. Una delle ipotesi era quella di rimuoverle completamente con un costo di lavorazione e di smaltimento. Beh, abbiamo ragionato un po', abbiamo detto: ma se noi vogliamo aumentare la massa, perché rimuovere queste piastrelle? Facciamo così, fissiamole con una rete metallica ai muri cui sono incollate, e poi sopra andiamo a applicare gli strati successivi. In questo modo siamo riusciti a incrementare ulteriormente l'inerzia termica della struttura, a risparmiare il costo di smaltimento e a velocizzare le operazioni, certo, anche in termini di tempo, di economia e di risorse. Un altro aspetto molto importante che, così mi sono fatto l'idea, magari mi sbaglierò, che abbia pesato molto nell'assegnazione di questo riconoscimento per la replicabilità della metodologia, è che voi avete operato mentre all'interno dell'edificio, come dicevamo, i lavori continuavano normalmente, cioè c'erano gli impiegati che facevano il loro, no? Sì. Cosa ha comportato questo? Siamo stati molto bravi, perché abbiamo studiato una metodologia di intervento per cui non si è verificato nemmeno un giorno di fermo lavoro all'interno. Quindi per molti versi intervenendo dall'esterno, facciata, ma anche organizzando delle squadre di lavoro notturne che, quando bisognava intervenire in uffici o in ambienti occupati, sostituire i vetri, per esempio, insomma. Esattamente, ecco. Il caso dei vetri è proprio quello che ci ha impegnato di più in questo senso, potessero intervenire nel fine settimana o fuori dagli orari di lavoro senza compromettere in alcun modo l'attività lavorativa all'interno dell'azienda. Ho visto che avete avuto un'attenzione particolare per il rumore. Sì, ad esempio una strategia che abbiamo adottato era quella di provare prima la rumorosità delle lavorazioni dall'interno, verificare se era tollerabile dagli occupanti e quei tipi di attività che non potevano essere fatti sotto una certa soglia del rumore sono stati differiti nel tempo in periodi in cui gli uffici non erano occupati. Grazie Nicolo Aste. Grazie a voi. È tutto, a domani.